Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Era tempo di acquistare un'auto tutta per me. Espongo le mie desiderata all'ufficiale in seconda, il quale mi consiglia, per i bassissimi consumi e la notevole abitabilità, una Citroën Dian 6. Detto, fatto. Mi chiamo Oscar, vivo a Hong Kong e faccio l'imprenditore. Oscar adesso vive a Hong Kong e fa l'imprenditore, come ci dice nella presentazione, ma nella sua vita precedente, o in una vita precedente, o quantomeno nella storia che ci ha mandato, era un militare. All'epoca faceva il militare e raccontava come un militare e parlava e scriveva, o scrive ancora, come un militare. E quindi la puntata di oggi, che parla di annunci, parla di fregature e parla di come... probabilmente quando si acquista un'auto bisognerebbe pensare solo con la propria testa e non, in particolar modo, non con quella dell'ufficiale in seconda. Oltre a questo, viene fuori proprio uno spaccato di vita militare, anche se non si parla di quello che accade durante quella vita lì, si parla di quello che accade intorno. Insomma, il modo in cui lo racconta e le parole che usa Oscar hanno a che fare con quella vita lì. Buongiorno a tutti, è il 21 di dicembre del 2012, sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, l'ultima puntata dell'ultima settimana prima di Natale. Noi saremo in onda sempre, ininterrottamente, anche a Natale, anche a Capodanno, saremo in onda. Poi, insomma, se veramente vi aspettate che alle 16 del giorno di Natale noi siamo qui, adesso quello è ancora da valutare. Però il programma c'è, ci siamo, in un modo o nell'altro noi ci siamo. Non vi preoccupate, nel caso foste preoccupati. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. Oggi si parla di annunci, si parla di comprare cose usate, come è successo ad Oscar e come succede a moltissime persone. Tra l'altro, la storia di Oscar, quando l'ho letta, mi ha fatto tornare alla mente una cosa che io utilizzavo proprio in questo periodo qua, che effettivamente è un escamotage abbastanza furbo, non so perché non lo uso più, ed è che... visto che non esiste una lista di cose che puoi regalare a Natale, sì, esistono magari i magazine, le riviste femminili, ogni tanto i quotidiani hanno delle pagine, però sono delle marchette quelle, no? Cioè ti cercano di piazzarti una roba perché è uscito il nuovo modello di questo, il nuovo modello di quell'altro. Ma se voi prendete, sapete, proprio il vecchio giornale di annunci, quello che di fatto è stato quasi spazzato via dal web, se voi lo comprate, non costa pochissimo, costa 2,50 euro, giusto? 2,50 euro, e tra l'altro per le pagine che c'ha è abbastanza ridicolo. Insomma, però è un investimento. Sfogliate nelle pagine, passate le prime pagine, quelle delle case, che regalare una casa è un po' complicato, e andate avanti, andate agli annunci, quelli di roba più spiccia, guardate quante proposte ci sono, tipo due cellulari anni 90, vendo in coppia due cellulari degli anni 90 con caricatore, si presentano in buone condizioni e funzionanti. Oppure, guarda qua, Canta tu compreso microfono CD e CD, 60 euro, perché no? Oppure cubo magico, cos'è il cubo magico? Chiuso è un cubo di 50 centimetri, aperto diventa... no, non è il cubo di Rubik. Aperto diventa una panca attrezzata per tutto il corpo, ideale per chi non ha tanto spazio in casa, completo di attrezzi e schede per fare più di 30 esercizi, 100.000 lire, sì, 100.000 lire, buonanotte, 100 euro. E ancora, sigaretta elettronica, causa doppio regalo, vendo kit completo con astuto. Questo non è vero, ovviamente, perché è troppo presto per avere un doppio regalo. È che la deve piazzare, è uno che le vende, Rudy, è uno che le vende, ce le ha lì e ti dice: guarda, ce l'ho doppia. Ma no, non gliela regalate il compleanno. Vendo sax tenore, vendo fisarmonica, 350 euro. Qui, vabbè, vendono cani, questi. Offerte: bottiglia di coccio piena di aleatico liquoroso, serie I rustici delle cantine Barroncini. Sigilli ed etichette integri, vendo al miglior offerente, addirittura c'è un'asta. Oppure filatelia Repubblica 1950, francobolli nuovi, perfetti, Repubblica Italiana anno 50, completo, vero affare, valore di catalogo 900 euro, vendo a 230. Devo dire che quando si parla di crisi lo si capisce anche da qua. L'ultimo annuncio che c'è prima di quelli chiaramente pseudo erotici è questo, è un annuncio però non di offerta, ma di richiesta. E ce n'è uno solo. E dice: cercasi. Mi puoi abbassare la base, per piacere? Perché è abbastanza malinconico. Cercasi in regalo divano. Si ringrazia anticipatamente. 349-238-6666, qualunque sia stata la cosa che avete acquistato di seconda mano e lo avete fatto tramite un annuncio. Giovanni scrive: ho comprato e compro ancora parecchie roba, dalle macchine ai cellulari di seconda mano. Giovanni, non sei tu che hai messo l'annuncio dei due cellulari di prima generazione anni 90? Per me e la mia famiglia sono sempre come nuovi. Quando l'oggetto è ancora buono, vabbè, insomma, è chiaro che è un oggetto di seconda mano, ma se è buono, è buono. E tutto perché Oscar, tanto tempo fa, e non vedo l'ora di parlare con Oscar più tardi, speriamo di avercelo al telefono. È stata un po' un'avventura, Margherita, trovarlo, perché sta a Hong Kong, ma ce l'abbiamo, ha promesso che c'è. Tutto perché Oscar, tempo fa, comprava una Citroen Dian 6. Inizio anni 70. Era tempo di acquistare un'auto tutta per me, evitando di chiederla in prestito a Capoboy, Sandro, per gli amici. Una 128 Rally gialla. Espongo le mie desiderata all'ufficiale in seconda, il quale mi consiglia, per i bassissimi consumi e la notevole abitabilità, non disgiunte dalla grande comodità del tetto totalmente apribile, specialmente in estate, una Dian 6 Citroen. Allegando il fatto che era stata pure acquistata con grande soddisfazione dal fratello medico. Ottima anche per rimorchiare, mi dice. Veramente io pensavo all'acquisto di una Giulia 1300 Super, anche di seconda mano, una vera macchina, un'Alfa. Ma non so cosa mi accadde. Probabilmente conquistato da quell'affabulatore dell'ufficiale in seconda, oppure volendomelo ingraziare, decido per l'acquisto della Dian 6. Detto, fatto. Il comandante in seconda, mio grande amico, mi ha magnificato una macchina simpaticissima, la Dian, mi ha praticamente quasi costretto a prenderla, l'ho comprata e la braccetti in arsenale mi porta a vedere poi la sua macchina. Auto divertentissima, finestrini laterali apribili con gomitata, cambio in plancia piuttosto comoda. Consumi realmente bassissimi, con due difetti però ai miei occhi, bruttina assai, e i sedili anteriori non ribaltabili. Grave lacuna, colmata diversi mesi dopo, grazie a un'intraprendente e benemerita carrozzeria di Augusta, che ovviò l'inconveniente rendendo, con un artificio ingegnoso, entrambi i sedili anteriori comodi, ma rustici, abbattibili e atti ad esternare le migliori e più tangibili intenzioni. Giulivo e felice, mostro all'ufficiale in seconda il mio fresco acquisto seguendo i suoi saggi consigli. Non spendi tanto, auto divertente, consuma poco, brutta, ma simpatica, spaziosa e così via. Lui mi fa i complimenti di rito e, con abile mossa, come spesso diceva lui, mi prende sotto braccio e, sempre magnificando la Dian 6 con lodi sperticate, facendo pochi passi, mi mostra nel parcheggio il suo nuovo acquisto. Una fiammante Lancia Fulvia Coupé nera, interni e sedili di pelle chiari, bellissima e elegantissima. Mi sorrideva ironico con quei suoi occhietti scuri che la raccontavano come un libro aperto. Un fottuto colpo basso. Tra la mia Dian 6 bianca e la sua Lancia Fulvia Coupé nera c'era la stessa differenza che corre, in tema di eleganza e grazia, tra uno scarrafone albino e una leggiadra libellula. Rimanendo senza fiato per tanta finezza automobilistica, facendomi violenza, sorrisi. Complimentandomi per l'ottimo acquisto, anche se in cuor mio, l'avrei volentieri appeso per i pollici alla chiave di volta della porta principale dell'arsenale. Era mia intenzione, io sono un alfista della prima ora, ho sempre avuto Alfa Romeo e avevo intenzione appunto di comprare una Giulia 1600 e invece lui mi fece una capa tanto dicendo: ma no, cosa fai, poi andiamo a Augusta, avanti e indietro a Milano, beve tanta benzina, pigliati la Diana è una macchina meravigliosa e io l'ho presa e poi dopo lui mi fece vedere la sua. L'avrei accoltellata. La Dian 6, va detto, ebbe successo al punto che, per esaltarne la simpatica bruttezza, fece scrivere sul portello del baule posteriore le seguenti beneauguranti parole: signora, non rida di questa macchina, perché potrebbe esserci salita sua figlia, trista prima e felice poi. Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare. Lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po', e non picchieresti in testa, così forte, no. Quando ancora io non lo conoscevo, mio padre aveva una Fulvia Coupé. Credo che lui fosse poco più che ventenne. Era la fine degli anni 60 e quella macchina vinceva tutti i rally, diventava campione del mondo ed era un piccolo sogno a portata di mano. Quando ero un ragazzino me la indicava ovunque, non così di frequente, per dirla tutta. Però ogni volta che ne incrociavamo una, iniziava a raccontarmi di quando lui aveva la sua Fulvia Coupé, beige, con gli interni in radica sul cruscotto. A 10 anni a me in realtà quella macchina sembrava solo una macchina vecchia e non ci trovavo davvero nulla di affascinante. Quando però ho letto la storia di Oscar mi sono andato a riguardare questa Fulvia Coupé e l'ho trovata splendida. Io non lo so che cosa ci sia nelle automobili che attira così tanto gli uomini e quasi per nulla le donne, e non so nemmeno cosa renda un'auto che 30 anni fa mi sembrava solo brutta, adesso invece splendida. E visto che uno dei miei passatempi preferiti, lo ammetto, è quello di girare sui siti di annunci di auto o di moto usate senza mai comprare nulla, ho provato a fare la stessa cosa con la Fulvia Coupé e come al solito sono uscito delle cose interessanti. Come queste: Lancia Fulvia Coupé 1003 Rally, anno 74, chilometri 130.000, manutenzione completa, appena effettuata, restaurata di carrozzeria 3-4 mesi fa, funzionante e marciante come visibili dalle foto reali, solo se davvero interessati, prezzo 3.000 euro. Oppure quest'altro: Lancia Fulvia Coupé 1003 benzina, 86.000 km, anno 75, chiamate solo se vi interessa, se volete speculare avete perso un giro, prezzo 4.500. Fulvia Coupé grigia metallizzata, interni in pelle rosso, trazione anteriore, numero porte 2, numero posti 4, se siete arrivati su questo annuncio non c'è bisogno che vi spieghi altro, prezzo 8.900 euro. E vi giuro che a questo punto io mi ero quasi convinto di andarmene a vedere una. Così, giusto per il gusto di sentirmi uno che si poteva comprare una macchina del genere. Poi, prima di farlo, invece, ho dato un'occhiata agli annunci di qualche Citroën Diane usata e ho trovato questo. Simpatica Diane 6 con capottina nuova, interni nuovi, usata quotidianamente. Annuncio rivolto solo ad appassionati seri e capaci di intuire l'affare. Auto stupenda. Eventuale permuta con punto Micra, Yaris, Golf 4, tutte rigorosamente 5 porte. Prezzo 3.000 euro. E ancora, Diane 6, anno 82, iscritta autostorica, buone condizioni di meccanica, da vedere. Non rispondo a email. Qualsiasi chiarimento, solo al telefono. Prezzo 2007. L'ultimo era Diane 1976, convertibile, prezzo regalo, completamente ristrutturata al 95%. Completamente, ma al 95%. Targa originale, libretto e certificato di proprietà originale, l'auto deve essere iscritta ASI. A causa del poco tempo non ho potuto farlo. Ecco spiegato il perché del prezzo. Per chi fosse interessato è un vero affarone. Prezzo 2.800 euro. Ecco, alla fine non sono andato a vedere nemmeno la Diane. Eppure, io non lo so perché, ma quanto mi piace leggere gli annunci dell'usato. Negli ultimi tempi in realtà sono andato un po' più a fondo di una ricerca, perché mi sono messo in testa, non so bene per quale motivo, di cercare una vecchia moto BMW di 30 anni, sapete, quelle con il motore largo, no? Quella roba lì. E non l'ho ancora presa, però capita di andare in giro a cercarle. E tutti quelli che ho contattato, quei 5 che ho contattato, sono tutte persone che hanno lavori totalmente diversi e che ne hanno tipo 4-5 moto storiche, che però non vorrebbero vendere in realtà. Loro ti dicono: guarda, la vendo a malincuore, perché? Perché ne ho presa un'altra più vecchia e non ho più posto nel garage per questa. Però il mondo degli annunci è un mondo secondo me straordinario, perché è come se fosse il processo inverso di Vendo Tutto, il programma che facemmo 3 anni fa. Dall'oggetto risale alla persona e trovi la sua storia. Ma chi se ne frega di questa filologia pura? È arrivato un messaggio che diceva: questo messaggio spiega, come suggeriva giustamente Tiziano, spiega perfettamente il motivo di questo programma. La Diane, scrive Maurizio da Firenze, non aveva i seggiolini ribaltabili e io li feci fare apposta ribaltabili e credevo di essere l'unico fino ad oggi. Ecco, questo programma ti spiega che quello che pensavi di essere l'unico, quella cosa per la quale pensavi di essere l'unico, in realtà non era vero. C'è sempre qualcun altro che ha vissuto una storia come la tua e che l'ha raccontata. In questo caso a farlo è stato Oscar. Pronto Oscar? Ehi là, ciao. Come stai? Che, bene, piacere, che piacere averti qui. Abbiamo temuto, Oscar, di non riuscire a raggiungerti. No, ammetto, guarda, ho fatto i salti mortali e sono qua fuori allo stabilimento in linea con voi. E allora guarda, ti rubo giusto 3 minuti. No, ma... Senti, mi spieghi se puoi, certo. Che cosa fai a Hong Kong? Allora, una fabbrica insieme a un socio in Hangzhou, che è vicino a Shanghai. Sì. E a Hong Kong c'è l'ufficio commerciale, tecnico e l'R&D. Ok, però tu hai una... non ci hai detto cosa fai, però immagino che tu per qualche motivo non lo possa dire, perché tu hai avuto in realtà un passato, una storia particolare, no? Cioè tu hai sì. fatto il militare, e da cui nasce questa storia, giusto? Che cos'eri? Si chiama anche quello. Sì. Ma eri in marina? Sì, marina, sommergibili e incursori, comando subacqueo incursori, Consubim. Ecco, i Consubim, visto che ci aveva già scritto qualcun altro dei Consubim, mi spieghi esattamente cosa sono i Consubim? I berretti verdi, i cursori di marina, quelli della decima MAS, tanto per intenderci. Ma perdonami, ma esistono ancora gli incursori della marina? Ma per fortuna la marina, la chiamano la grande silenziosa per quello, non si sa ma c'è, come, è alla Spezia. Ah, alle Grazie, giusto? Cioè, la base bravo, è... Ho capito. Ho capito. Sì. Sono quelli che ogni tanto quando mi capitava di andare sull'isola di Caprera arrivavano questi tizi coi gommoni buttando in acqua gente e dicendosi di allontanarti perché facevano delle prove. Possibile? Sì, esatto. Okay. Potevano essere anche quelli del San Marco, però quasi certamente sono quelli del Consubim. Tu non sei più però militare adesso? No, dal 94. Dal 94. E l'ultimo richiamo che ho fatto. Richiamo cosa vuol dire, perdonami? E mi hanno richiamato in marina per tanti svariati motivi. Che non ci puoi dire? No. Dai, dimmi solo tipo cos'era. Beh, io ero uno delle cose. Dai. E poi imbarcato sui sommergibili. Ma quindi hai fatto missioni pericolose? No, beh, ma... Non ce lo puoi dire. Le stanno facendo adesso, diciamo così. Il 91 c'è stato... diciamo che è iniziato con la Somalia, poi con il Libano... Poi con l'Iraq e adesso con l'Afghanistan. Ma scusami Oscar, innanzitutto a questo punto credo che Oscar non sia il tuo vero nome. È vero. Ok, perfetto. È un acronimo. Perfetto, è un acronimo. Ma erano di quelle missioni, è vero che probabilmente ho visto troppi film di guerra e di servizi segreti, ma erano quelle missioni per cui ti dicono se vi succede qualcosa per noi è come se non esisteste? Né visto né conosciuto si dice. Davvero? Sì. Ma allora è tutto, ma allora è vero, esistono queste cose? Sì, ma nessuno di noi ha mai lasciato indietro uno dei nostri, questo, ma nessuno, e non lo farà mai. Ma questo lo immagino, insomma, arriva sempre dai film, cioè lo immagino perché lo vedo lì, però posso capirne... Sì, ma infatti raccontano un sacco di balle perché è anche peggio la situazione. Posso, insomma, esatto, vabbè, posso solo immaginarlo. I nostri sono, in questo momento, i nostri sono in Afghanistan, e questo è risaputo. Mm. E i Consubim? Sì. Ma scusami, tipo, in Afghanistan quanti uomini sono impegnati dei Consubim? In italiani ce ne sono 4.000, se non sbaglio. Del Consubim poche decine, perché fanno delle missioni particolari. Ma e poi basta con questa questione. Quanti Consubim ci sono in Italia? 1.000? Massimo, non riusciamo ad arrivare a 200. Ah, ma è un corpo proprio risicatissimo. Diciamo che ti dicono, se vuoi... quando vuoi entrare, innanzitutto non è che si entri subito, devi appartenere a un altro corpo, puoi essere imbarcato o puoi essere in altre situazioni, e viene fatta una selezione, diciamo che su 100 ne prendono 5 forse. Ma senti, sono stati degli anni che non è stato due o tre anni fa, non è stato brevettato nessuno. Ah, perché si dice brevettato, cioè quando vieni scelto sì, sei stato brevettato. Verde, quando ti danno il berretto verde. Senti, ecco qua mi scrive, esatto, lui, Gerardo che è stato un legionario, mi aveva scritto dei Consubim. Ma quello sono il legionario, parliamo della Legion francese. Della Legione straniera, sì, però lui sì. mi aveva accennato del corpo dei Consubim perché evidentemente ne conosceva l'esistenza. Sì. Senti, vabbè, stai a chiederti solo di questo, però vorrei chiederti invece, tornando là, quanti anni erano, la Dian quanto è durata? È durata 3 anni, durata bene, poi ci hanno trasferiti Taranto e ho preso un'Alfa, una Giulia, neanche fa la alla fine te la sei presa sta macchina. Da allora ho preso sempre Alfa e ancora adesso a Milano ho un'Alfa GT, tra l'altro. Okay. Però 3000 è una cosa un po' più. E a Hong Kong che macchina hai? Non l'ho perché non serve. In che senso? Perché ci sono mezzi, taxi? No, i mezzi funzionano da Dio, prima di tutto. Poi se devo andare nella madre patria prendo l'aereo. Vabbè, non lo immagino. Io ho la cittadinanza cinese. Ma scusami, perché a Hong Kong? Ma perché è stato un caso, perché in aereo anni fa incontrai nel 99 un tizio che abitava a Milano, nella zona cinese di Via Canonica. Sì. Questo aveva aperto una fabbrica, io poi mi sono laureato in ingegneria, in chimica. Questo ha aperto una fabbrica, l'ho conosciuto, avevo qualche soldino da investire e allora ho rilevato il suo ufficio di Hong Kong. Da lì poi è nato l'R&D e poi vabbè, è un bel posto, mi piace. È un bel posto dove vivere Hong Kong? Stupendo, io l'avrei fatto anche prima conoscendolo. Ma io ho famiglia lì, famiglia, ho moglie, figli, eccetera. Oscar, guarda, ti ho rubato più del tempo che ci avevi dato, quindi ti saluto, ti ringrazio per la storia e per la chiacchiera, che rimane un po' così nel mistero, ma è meglio così. In bocca al lupo per tutto. C'è nessun mistero, è inutile parlare di cose che è meglio parlare, perché purtroppo in Italia non si è... diciamo onorati di quello che fa certa gente rischiando la pelle perché ci crede, quindi è meglio lasciar perdere. Non siamo come in America o in altri posti. Va bene, ti ringrazio Oscar, fai un buon Natale. Ti ringrazio ancora, ciao, ciao. Buona giornata. Oscar, o come diavolo si chiama a questo punto, è in uniforme nella foto che ci ha mandato ed è una splendida foto, sembra una foto d'epoca, non saprei dire quali anni, ma probabilmente fine 70, forse primi 80. È in divisa, non è quella divisa della Marina, una giacca a doppio petto con dei bottoni d'oro, una spilla, come si chiama? Ha due stelline sul bavero, cioè una stella da una parte e una stella dall'altra, camicia bianca, cravatta, il berretto sotto il braccio e una faccia bellissima, è un bellissimo uomo, era un bellissimo ragazzo e immagino sia un bellissimo uomo Oscar, capelli ricci, baffo, la faccia da Magnum PI. Seconda mano. Di oggetto acquistato già usato da altri o di notizia avuta indirettamente. Etimo, latino, manum. Data, prima metà, secolo XIII. Ditemi se servono altri. No, aspetta. Ditemi se servono altri non è il titolo di una cosa, è la fine della mail di chi ha fatto i post-it. Qualsiasi cosa tu le dia da leggere, Alessandra De Luca te la legge subito, tipo foto Oscar, voi siete qui, dopo foto no base, dizionario, lei qualsiasi cosa te la legge. Grazie mille ad Alessandra De Luca che continua a impreziosire questo programma con la sua splendida voce. Che chiaramente questa puntata ha dato il là a tutti questi folli che io adoro, che passano il tempo sulle loro vecchie automobili o motociclette, o come il nostro Carmelo Lauricella sulla sua bicicletta. Allora mi scrive, non so chi, per avere i ribaltabili sulla Dian è sufficiente montare i sedili della EMI 8, stesse guide, mi mette tra parentesi. Interessa? Guarda, al momento no, però magari c'è qualcuno interessato ad andare in giro con una Dian, che tra l'altro si faceva confusione tra la Dian e la Due Cavalli, sono diverse, la Due Cavalli aveva i fari fuori, la Dian ce li aveva dentro. Puntata molto maschile quella di oggi, eh? E il Consubim è una delle eccellenze dell'Italia, come lo fu la Stratos, quella Tolastura, appunto, macchine militari direi. Esule, ma sono tornato da Hong Kong lunedì, sono tornato da Hong Kong lunedì, quanto è vero quello che dice Oscar? Tutti a Hong Kong, mi verrebbe da dire. Eh sì, che tempo ci sarà adesso a Hong Kong? Marche, mi guardi il meteo di Hong Kong? Sempre fondamentale il meteo, perché non è che mi vai lì e c'è brutto tempo, c'è un monsone. Per vendere i miei pappagalli uso tantissimo gli annunci su internet e devo dire che funzionano. Beh, immagino. Ciao Matteo, sono Piero. Ciao Piero. Il mio sito è Piero Pappagalli. PieroPappagalli.it probabilmente. Ciao, buona festa anche a te. E poi magnifico Aldo che mi chiede se sono interessato alla moto. Guarda Aldo, sto esattamente cercando una moto simile a quella, un R80 o un R100 di quegli anni lì, primi anni 80. Se le interessa sul serio, sono disposto a vendere la mia R80 ST, certificata registro storico. Complimenti, Aldo. Aldo, guarda, io ci penso, perché effettivamente il problema è che non mi convinco mai a fare il passo. È come se mi divertissi più a cercarle che non veramente poi a comprarle. Allora, mi dicono che a Hong Kong ci sono 19 gradi, ma di minima o... Ah, oggi ci sono 19 gradi. Insomma, non è tipo primavera, più o meno. Ed è nuvoloso, però mi dicono che c'è un'umidità, e come dice mia nonna, non è tanto il caldo, è l'umidità. Non è tanto il freddo, è l'umidità. È comunque sempre colpa dell'umidità. 349-238-6666. Oggi è arrivato un messaggio bellissimo sul profilo Facebook a proposito di annunci, perché è questa, no, la cosa figa degli annunci, che dietro c'è sempre una grossa storia legata a quell'oggetto lì, oppure a te che vuoi avere o vuoi liberarti di quell'oggetto. È una storia che è stata pubblicata sul diario pubblico del profilo Facebook, che Voi Siete Qui Radio 24, e l'ha pubblicata Riccardo un po' di tempo fa, 5 ore fa. E voglio leggervene non tutto perché è lunghissima, ma un pezzo, perché racconta come attraverso questa roba qua, lui parla di un giornale di annunci, che è quello che ho preso anch'io per la puntata di oggi. Comunque, attraverso gli oggetti che compriamo o che vendiamo, noi costruiamo delle tappe della nostra vita. Era il giugno del 1995, avevo 18 anni e un mese. E per regalo i miei genitori mi avevano iscritto alla scuola guida. Molto presto avrei preso la patente e avevo avuto la possibilità di guidare l'appunto di mia mamma. Ero infatti uno di quegli adolescenti a cui i genitori avevano negato sempre il motorino, con la paternale «quando avrai 18 anni farai quello che vuoi», sottintendendo che a 18 anni avrei smesso di volere il motorino. Ma si sbagliavano. Avevo 18 anni, un foglio rosa fresco fresco in tasca e feci quello che volevo. Misi, a insaputa dei miei, un annuncio su Seconda Mano, che diceva così: «Cerco Vespa 125 PK o PX in buone condizioni, massimo 500.000 lire, telefonare 051 eccetera eccetera eccetera». Nel frattempo io però dovevo procurarmi i soldi, tutti e in fretta, e avevo solo un modo. Dovevo per forza riuscire a fare lo scrutatore ai 18 referendum di Pannella, che molti ricordano come quelli sulle televisioni di Berlusconi, che si sarebbero svolti dopo qualche giorno a scuole chiuse. Per 3 giorni stetti a scrutinare tutte le schede e per me ogni tipologia di referendum valeva circa 32.000 lire, per un totale di 578.000 lire. In pochi giorni iniziarono ad arrivare le telefonate a casa. E ricordo ancora la faccia di mio padre, quando rispondendo al telefono fece un grido ai presenti in casa che diceva: «Qui qualcuno cerca una Vespa PX 125?». Io, con nonchalance, dissi: «Sì, io». Ecco, mio padre aveva capito in quel momento che cosa aveva partorito il motto «quando avrai 18 anni farai quello che vuoi». Lui accettò la sconfitta e quello per me fu il primo passaggio all'età adulta. In totale andai a vedere 3 Vespe, ma quando vidi l'ultima chiesi un parere al massimo esperto di motori. Avevo un compagno di classe che ai tempi, al posto di studiare, smontava moto e motori nel suo garage. Ricordo con quale perizia il tonno la osservò, la provò frenando e sfrizionando, facendole un check-up completo che mai avrei saputo immaginare, il tutto in un garage condominiale, in quello del venditore. Alla fine mi guardò e mi disse: «Secondo me faresti bene a prenderlo, questo Vespone». That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs, beat it up, an ox beat, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down high. Fire and a fire represented 7 games in a government for hire and a combat site. Let the western come in a hurry with the fury. Ebbene sì, l'abbiamo fatto anche noi. Ci eravamo ripromessi di no e poi abbiamo detto: non facciamo i soliti snob. Per una volta, stiamoci anche noi in questo gioco. Abbiamo messo i REM con It's the End of the World e non quantomeno la versione italiana, che invece è A che ora è la fine del mondo. Ma valeva bene, andava bene sia l'una che l'altra. 349-238-6666. Qualcuno mi scrive: nella Dian era comodo spostarsi dietro. Va bene, ti ringrazio. E soprattutto, non so chi mi scrive, fortissima questa storia. Io avevo una Citroen Visa, sembrava una supposta. E io ti devo dire, non avevo capito che macchina era la Visa, ma quando mi hai detto che sembrava una supposta, ho capito qual era. Grazie a Fabio Cantadori, grazie a Tiziano Bonini e grazie ancora e oggi ancora di più a Margherita Hina. La storia di oggi era la storia di Oscar e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Martina, ho 22 anni, vivo a Roma e la storia di lunedì è la mia e parla della mia festa dei 18 anni. Questa è la mia storia e io sono qui.